sa, prova, sa. Ma perché poi dicono tutti sa? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sa, sa, sa, prova Pierluigi Pardo, sa. Sa, come va? Funziona, funziona. Falla anche tu Giovanni Capuano, prova sa, sa, sa, sa. Soundcheck. Sa, sa, Sampdoria. Io mi sto... Sampdoria. Sai che ho un nuovo trip dei WhatsApp che arriva in studio? Il messaggio, il contatto è 349-238-6666, lo stesso gli SMS, però i WhatsApp mi divertono un sacco. Per la zanzara. Ha scoperto la tecnologia, oh, cioè, hai capito che WhatsApp esiste da anni, però no, ma nella uso vita anch'io. Di Carlo Gente no, è arrivato ma lo l'altro uso. Giorno. Giovanni, fa il bravo, lo uso anch'io, ma non sono un paio di giorni che lo usiamo in studio. Per la zanzara, Ilona Staller, spia sovietica, se mi telefonate vi spiego perché. Pensa un po', questo poi però non è nostro, lo girerò a Cruciani. Mentre questo L'Ungheria è nostro. Ha vinto, a proposito di Staller. Scusi? L'Ungheria ha vinto 1-0 in Norvegia. Ah, infatti, si è spogliata? Eh? Non lo so, non lo so. Non si sa. Però. Poi c'è anche questo, Carlo con 8 O, arriva Montella, scrive Davide da Genova, Guido Bagatta, sì, buongiorno! Sì, sì. Buongiorno, certo che arriva, certo che arriva. 2 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo. Li paghi tu? Comunque arriva. No, io non lo paghi. Ricchissimo Pardo. Cioè, ricchissimo Pardo si mette a pagare anche l'allenatore, il nostro allenatore. Voci di corridoio dicono che non è così facile, sai Guido? Cosa, che arrivi? Mm-hmm. Invece manca, le mie voci di corridoio dicono che manca veramente pochissimo. Anche le mie. Comunque, le se la poi l'alternativa è Cesare Prandelli, va bene lo stesso. Nel senso che stiamo parlando di due super, quindi... Guidolin? Su Guidolin io non lo so, mi sembra un po' più... Cioè, poi magari va benissimo, però mi è sembrato sempre uno spento. Io me lo ricordo ai tempi... del Vicenza, dico bene? Dico, sì, che tra l'altro che era una grande squadra, no, Vicenza di Guidolin. È andato mica anche in UEFA. Metà anni 90 è andato in UEFA, giocava bene, 4-4-2 ordinato. Nella mia vita ho fatto poche telecronache di calcio, meno male per chi mi sentiva. Una di queste è stata per credo di un TV, non mi ricordo più che cosa, del Vicenza in Coppa UEFA. Quindi ho questi ricordi. Ottimo allenatore per una volta, adesso mi sembra anche perché si è adagiato tra vigneti e altre cose che fa, mi sembra un po' fuori rotta. Gli altri due invece sono due super super veri, al di là che sono anche due persone meravigliose a livello mediatico, quindi anche per la stampa, due che rispondono anche quando perdono. Sì, sì, poco, qualcosa. Ce ne sarebbe un terzo, Ce ne sarebbe un terzo. È Loco Bielsa, c'è nella tua testa il terzo. Nella tua è quella di Paolo Condò. Sì. Loco Ivasloco. Chi? È Loco Bielsa. Bielsa. Loco è più Loco, pensa a Bielsa e Ferretti. Bielsa e Cassano. No, vabbè, il trio. E lì vedi a cena Cassano, Bielsa e il nostro presidente. Ferrero. Che meraviglia. Fantastico. Come si dice in questi casi, vorrei essere una zanzara per essere presente, come Cruciani. Senti, abbiamo capito però, Guido, abbastanza bene anche dalle voci dei tifosi sampdoriani i motivi dell'allontanamento di Zenga, non piaceva proprio a nessuno. Lui e il suo gioco, la barba dipinta e tutte queste, cose. Diciamo che ha fatto fatica in una situazione non facile, perché arrivare dopo Mihajlovic non era semplice, con una squadra completamente rifatta, perché a parte davanti, dietro sono andati via personaggi importanti, con un'esperienza da allenatore non di questo livello e con un approccio, un atteggiamento un po' guascone, come ha sempre avuto Walter, che è peraltro una bravissima persona, perché poi in questi giorni ho sentito anche cose non degne. Lui è un bravissimo Cristo, questo mettiamoci. Solo che probabilmente per questo tipo di calcio o non è ancora pronto o non lo sarà mai, quindi ha pagato. D'altra parte ti faccio una domanda, Carlo, o anche Buon Pardo: se domani mattina ti chiamano e ti dicono, ti ricoprono o ti danno comunque parecchi soldi per andare a fare un programma per il New York Times, e tu magari ci pensi, ci vai, poi se non parli magari l'inglese a sufficienza è un problema, ti mandano, però la proposta l'accetti, lui ha fatto bene accettarla, ha sbagliato probabilmente chi gliel'ha proposto quel tipo di lavoro. Sì, questo sì, è il problema. Sì. But we are able to speak English, no? Pierluigi Pardo. Yeah, we can go. Yeah, we can be hired, you know. Can we think positive about the new season and we go Cup 1 with us. So, ecco. Poi il nipote di Alberto Sordi. Ecco, sì. Ma che non hai mai provocato molte mani, tu dici. Posso dire una cosa al nipote di Alberto Sordi, che ovviamente magari la penserà diversamente. Poi dopo facciamo il processo a Zenga e alle sue inadeguatezze per guidare la Sampdoria. Diciamo anche che quest'estate non è stato immediatamente messo nelle migliori condizioni. Perché ad esempio quando tu poi gli crei intorno il caso Cassano, dove evidentemente aveva ragione Zenga. Assolutamente, però tre mesi dopo lo possiamo dire, poi magari nel resto della stagione Cassano andrà meravigliosamente bene. Com'è andata però, lì. Però oggi sai è così. Com'è andata lì. Beh, tu di fatto già metti un bastone non piccolo tra le ruote. Non aveva allenatore. La forza. Sì, però scusa, adesso io faccio un attimo. Che era la musichetta di fuori. Faccio la prova difensore. Dico adesso Cassano sta giocando poco e quindi anche male e va bene. Adesso dire che è colpa sua se la Samp, cioè, se non gioca, io non ho detto questo, ho detto che intorno alla questione Cassano sì, Cassano no, dove Zenga aveva una posizione che era abbastanza chiara e delineata, lui è stato immediatamente delegittimato. Allora, questo intendo. Poi Cassano ha giocato talmente poco che non ha un peso in questa sala. Uno come Zenga non aveva le spalle per dire di no. Allora era ovvio che l'inserimento di Cassano non si doveva fare per mille motivi. Se ci fosse stato già Montella, Mihajlovic avrebbe detto no, ed era no. Invece la debolezza di Zenga, per come è stato preso, per quello che ha accettato, per il fatto che arrivava da una situazione dove non è che è stato strappato all'Arsenal come allenatore, è stato costretto a dire di no, ma poi di sì, e non aveva le spalle per imporsi. Un altro allenatore, vedi Montella, Prandelli, fai tu l'elenco, avrebbe detto no, io non lo voglio, se me lo prendete io me ne vado. Però posso lanciare una provocazione, poi so che c'è il traffico e quindi poi andiamo in traffico. In fondo Zenga si è comportato esattamente come Mihajlovic al Milan, che si è pippato Mexes e De Jong, che non voleva, e Berlusconi glieli ha imposti, e si è comportato come Allegri alla Juve, perché Allegri voleva il trequartista, alla fine si è preso Cuadrado ed Hernanes e ha detto anche che gli andavano bene. Allora questo mito degli allenatori che sono in grado di tenere, diciamo, la schiena dritta davanti alle scelte sul mercato della società o del padrone, io credo che forse andrebbe rivisitato, cioè non è solo sì. Zenga. Non lasciare Hernanes, hai parlato di uno che non vuole Cuadrado, un pazzo, perché Cuadrado ha cambiato la Juventus, ragazzi. Oh, stiamo parlando di uno sì, che però gli ha messo anche un po' di difficoltà da Allegri. Cioè, se tu lavori tutta l'estate su una squadra col trequartista e le due punte e hai comprato tre prime punte, quando devi giocare col 4-3-3 qualcosa non quadra. Uno fortissimo, freschissimo, che ha voglia di vincita nell'apice della sua carriera. Dall'altra parte abbiamo un eccezionale personaggio in parabola discendente con tutto quello che si porta dietro. Non paragoniamo senza offesa a Cuadrado a Cassano, dai, su. Ma lo stesso Hernanez adesso giocherà male, però è uno che si è messo nel prime della sua carriera. Sì, sì, però io ribadisco, cioè io penso che Cassano sia in questo momento nella Samp una storia marginale, perché lo dicono i numeri, lo dice il rendimento. Certo, certo. Sono d'accordo. Sono io il primo a dirti che non... quindi però non secondo me adesso fare questa questione come se fosse uno dei motivi scatenanti. No, ma non c'entra. Ma era un ragionamento su Zenga. Cioè, secondo me Zenga, premesso che, lo ripeto, Zenga, guardiamo la classifica, certamente meritava ancora di andare avanti, perché non sta facendo male, sta facendo così così, quindi non meritava di essere esonerato. Detto questo, se la squadra fuori casa non fa gioco, se comunque la sensazione è che in questa metà classifica la prospettiva non sia di crescita, ma sia invece declinante, insomma, poi questo è indipendente dal discorso Cassano. Cioè, di sicuro Cassano non è un fattore in questo momento della Sampdoria, no, è una sposta di equilibrio. Credo che lì sono stati fatti due calcoli, guardando la classifica e guardando cosa sta succedendo, a parte magari il povero Carpi. Allora, il Verona prima o poi si può risvegliare, così non è anche, forse la Sampdoria, per come sta giocando adesso, è più vicina al sotto che al sopra, e quindi è meglio pensarci adesso piuttosto che a gennaio, quando sei lì che annaspi. Sì. Sì, credo il discorso sia stato questo. Grazie Guido, un abbraccio. Grazie ragazzi. Ciao, ciao. Il traffico, arriva il traffico. Il traffico. Anche tu c'hai il traffico, quell'altro si lamenta, lamentati anche tu, dai. Porca. No, ma il traffico piace, sono curioso. Sono curioso di sapere che succede sulle strade italiane. 800240024 è il numero verde. Traffico. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Io ho questo, un vecchio amore per la Samp, nella persona di Mazzarri. Cosa ne pensate? Domanda Ale da Seregno. Il problema è che Mazzarri sta facendo l'Erasmus, ragazzi. Excuse me. Ah, yes sir, can I help you? Excuse me. No speak English. Italian. La valigia. Io perduto la valigia. You lost your child. A child. No, questo è bambin. No bambin. Come? Your dog. Dog. No, questo è can, no can. Momento, Mimmo, una parola. È la prima parte. Va lì. Già. Big fish, do you speak English? Fabri Fibra, do you speak English? Avrete letto da qualche parte che Mazzarri è in una famiglia a Manchester a studiare l'inglese. Sì, tra l'altro adesso un po' io credo che vorrà intervenire, non lui, ma insomma il suo responsabile comunicazione che lo sta seguendo in questi giorni. Io il consiglio che non do a Mazzarri in assoluto è di tornare prima o poi a parlare, poi parlasse parlasse italiano, inglese, tedesco, spagnolo, turco, dove vuole lui. Ma ha 3,5 milioni di motivi Pier per non parlare, però è evidente, insomma, che si può parlare di calcio, non è per forza di fare da quali le confessioni di Sant'Agostino. Io penso che insomma, lui debba farsi un po' rivedere. No, poi il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. No, va bene, dai. Come si sente? De Luca mi dice fanno col ditino. Aspetta, facciamo in un attimo. Luca Marchetti da Sky, ciao, quanto tempo? Dove eri finito? Ciao. Io sempre qui. Dove sei stato in vacanza? In vacanza a Sky Sport 24, non so. Bel posto, sì. Sì, un bel posto di villeggiatura. Di solito faccio anch'io lì le vacanze. Luca, mettimi... che non ci siamo beccati. Mettimi a posto il puzzle delle panchine, per favore. Già? Vabbè, già, sì. Una dobbiamo mettere a posto, sì, quella della Stampa. Mettimi a posto questa, poi le altre vediamo. Ma io sono convinto che alla fine Montella riesca a convincere la Fiorentina, la Samp e la Fiorentina insieme in tutto questo triangolo che c'è. Io vorrei capire in realtà dove iniziano le responsabilità, le necessità e gli impegni di uno e dove finiscono quelli dell'altro, perché ieri io ho avuto la sensazione che si giocasse a è colpa mia, è colpa tua, no ma parlaci tu, no ma ci parlo io. Quando la Samp lascia entrare che adesso ci deve pensare Montella perché è tutto a posto, mi sembra un po' una foglia di fico, ecco. È evidente che il rapporto fra la Fiorentina e la Sampdoria deve essere concluso in maniera efficiente per tutti, certo, quanti, soddisfacente per entrambe, per forza. Non può pensarci Montella da solo, anche perché mi pare che Montella dei tre sia quello che ha i peggiori rapporti con la Fiorentina. Cioè, assolutamente. Quindi, anche se piglia il grano dalla Fiorentina, peraltro. Appunto, però, no, forse anche per quello. Esatto. È un po' come Mazzarri con l'Inter, non è che Mazzarri con l'Inter che vadano proprio d'accordo. No, però ha ragione Pierluigi. Mazzarri, se ci sei, batti un colpo. Cioè, anche gli allenatori, sebbene sotto contratto, cioè, si facciano vedere, sentire, sparire sull'isola dei famosi non ha molto senso. Ma soprattutto un allenatore come Mazzarri, che l'abbiamo detto mille volte, è stato fatto fuori più per discorsi di carattere, secondo me, mediatico, ambientale, tecnico, mediatico. Ma sì, ma ce l'ha spiegato perfettamente anche Fassone ieri. Non è più un segreto né un mistero questo. No. Ma posso dirvi su Montella che io quello che credo è questo. Innanzitutto credo che Montella abbia tutta una serie di telefonate che riceve, nel senso che Montella è una prima scelta, secondo me, per tutta una serie di club importanti qualora la situazione dovesse precipitare. Sì. E quindi questo è un primo elemento. Seconda cosa, è un elemento a favore o è un elemento contro? Guarda, potrebbe diventare un elemento a favore, perché che succede? Che Montella adesso vive questa situazione paradossale di essere un prigioniero di lusso, nel senso che questi 5 milioni teorici di clausola, teorici perché credo che alla fine si troverà una quadra per una cifra più bassa, sono tanti, sono oggettivamente tanti, cioè lo rendono molto meno appetibile da un punto di vista di mercato. Quindi io credo che questa cosa della Samp, oltre, cioè dal punto di vista tecnico, non è che ci sia tantissimo per lui, perché lui potrebbe anche sinceramente aspirare a una panchina top, e qualche segnale secondo me gli è anche arrivato. Possiamo parlare di Milan e Roma, giusto per fare due nomi di fantasia? Sì, credo, più Milan, credo più Milan che Roma. Detto questo, in questa situazione qui è chiaro che una delle cose che Montella potrebbe avere comunque l'interesse e il piacere, al di là della voglia di tornare ad allenare, di risolvere, è uscire da questa situazione. Cioè se Montella va a allenare la Samp, risolve di fatto questa situazione, perché smette di essere legato da una clausola che di fatto lo incappa, che rischia di trascinarsi fino al 2017, tra l'altro. Appunto. Quindi lui non è che a giugno finisce qui. Chiaro. E poi vuole allenare, poi c'è pure il legame con la Samp, cioè queste cose sono bellissime tutte, però io credo ci sia anche quella dinamica lì. Però scusate, io non ho capito una cosa, in questa guerra di corridoi, allora il corridoio di Radio 24 dice attenzione perché non è poi così scontato che Montella si sblocchi, quello di Mediaset dice di Bagatta, che è fatta, di Sky, no, quello di Sky mi interessa, non ho capito Luca Marchetti, alla fine nel corridoio di Sky se questa cosa viene data per praticamente fatta, mi pareva di cogliere invece che ci sia un po' il gioco delle tre carte. La mia convinzione è che alla fine andrà, ma siamo sull'ordine della scommessa, dell'opinione, del parere personale, ecco. Di certo non abbiamo nulla, anzi i nostri riscontri con la Samp ci dicono, ci consigliano molta cautela. Sì. Ancora. Io aggiungendo una cosa al discorso molto intrigante che ha fatto Pardo, direi. Sì, io peraltro lo condivido e l'ho pensato sin dall'inizio. Forse me l'ha rubato pure, vedrai. No, io aggiungo un'altra considerazione: che se invece Montella decide di andare alla Sampdoria, magari ha qualche garanzia sul fatto che adesso si parte così, ma poi ci sono altri piani, altri programmi e magari altri proprietari. No, sì, credo di sì. Momento no. Come no? Sì o no? Al momento no, poi è ovvio che la Samp, diciamo che insomma, basta leggere i giornali per sapere che delle 20 società della Serie A è quella forse più facilmente contendibile, no? Però anche lì ci andrei piano, nel senso che poi alla fine è un anno che si dice che è contendibile e va avanti, anzi un anno e mezzo. Alla fine poi invece no. Però i rumor sull'accoppiata Volpi-Briatore sono sempre più forti, Sì, sì, però in questo momento, questo del domani, veramente da domani mattina non lo so, però in questo momento secondo me su questa trattativa qui, la trattativa la sta facendo Ferrero, la sta facendo la Samp di oggi. No, certo. Nel senso che magari uno poteva pensare, no, che Montella appunto va alla Samp, che per discorso facevamo un minuto fa, perché la Samp ha un grandissimo progetto, magari ci sarà, ma oggi non c'è, oggi va nella Samp di Ferrero. E ci va se si trova una quadra su questa uscita intorno credo ai 2 milioni e mezzo. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Luca Marchetti, ma l'IVA sul trasferimento dei calciatori si paga o è facoltativa o si paga solo a giugno, mentre no, si paga a gennaio, non si paga a giugno? Mi cogli impreparato. Ma come? Non so se generalmente quando parliamo dei 30 o i 30 più, 30 più IVA per basket, Spero siano comprensivi di IVA, cioè che parliamo di prezzo all'ordo, evidentemente per Zamparini no, e quindi sarà quel 20%, 22% in più, ormai 22, no? Ma sì, una partita di giro l'IVA, no? Sì, è 22, a meno che non sia un genere di prima necessità, ma non credo che vada a di giro. Basket potrebbe essere un genere di prima necessità per il Milan, però... Esatto. Stiamo parlando di mezzi 4, di sostentamento. Allora. Oppure potrebbe essere al 10 che arriva per le ristrutturazioni, per i materiali. Meno male. Il Milan ci stiamo allargando. Sì. Vabbè, Luca, grazie. A voi, ciao. A presto, sempre un piacere. Vasquez 30 più IVA, com'è? Potrebbe essere al 4, potrebbe essere al 10. Guarda, tu scherzi, cioè, però quando De Laurentiis ha fatto partire Cavani, voi andatevi a leggere il bilancio. Se le fa, io non so se ci fosse l'IVA o cosa, ma lui si è fatto pagare Cavani fino all'ultimo centesimo all'ordo, perché l'accordo, la clausola rescissoria era che chi si comprava dentro la clausola rescissoria doveva pagare tutto, compreso ad esempio il contributo FIFA per tutte le squadre che avevano allevato prima di una certa età Cavani. E se voi andate a leggere, solitamente il giocatore viene pagato 30 milioni e 500 mila euro, Cavani fu pagato 67 milioni e fino alla virgola, e c'era De Laurentiis aveva preso tutto fino all'ultimo centesimo, compresi centesimi di rame. Ci fermiamo un attimo per la borsa, torniamo subito. Pier da Torino, stia lì. 800 24 00 24. Bene, molto bene, il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Ragazzi, c'è Cristian cattivissimo che scrive su WhatsApp: perché non aboliscono la sosta per la nazionale? È come Strade in diretta. Questo è il messaggio di Cristian. 349. No, in diretta è meglio. Sono d'accordo, Strade in diretta è meglio. 349-238-6666, quantomeno dura poco. Sì, poi c'è Nuvole Rocca, insomma. Sì, ci sono varie cose che ci affascinano, ci intrigano abbastanza. Capuano se ne si becca delle spatafiate ogni domenica. Strade in diretta la domenica è una specie di così inchiesta. Comunque, Pier da Torino, buongiorno. È uno spaccato di vita del paese. Pier, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi sono quasi dimenticato la domanda. Ah, mi spiace. No, sto scherzando. Vada alla busta B. Se la busta A l'ha persa, busta B, o semmai la C. L'ho preparata da un po' di tempo, per cui ne sono ben consapevole di quello che devo chiedere. Prima volevo solo fare un appunto al mio omonimo Pier. Tiki Taka, all'unamento di Eri. Guardo la sigla, buonasera, e mi sono addormentato. Se potesse cominciare prima. Cioè cambiare la sigla, intendi? Esatto. Lavoriamo sulla sigla. Che le devo dire? Non è il solo che te lo dica, ma io non è che decido per stessi. Ho capito, non è così, non è da XXX. Alle 10:30 ci sono programmi XXX, insomma. Potrebbe anche andare prima, sì, comunque. La ringrazio. Però. Guarda, è una domanda che riceviamo ogni settimana, preparati un comunicato. Sì, no, ma che ricevo 20 volte al giorno. Possiamo fare una petizione alle 10 di sera. Petite. Dica. Grazie, l'altro? Senta, la mia considerazione, e voglio una vostra opinione, perché io sono un uomo di sport, sono sempre stato un uomo di sport, ho giocato a calcio anche a buoni livelli, insomma. Mi trovo assolutamente in disaccordo su Donadoni. Un paio di settimane fa ho letto Tutto Sport che ha ricevuto per l'anno scorso un premio per la sua sportività, no? Ora io dico, un allenatore che per 20 partite non fa fare punti alla sua squadra, non viene seguito, non voglio fare il moralista, ma voglio fare il pratico, perché appunto in questo mondo bene o male ci ho vissuto anche parzialmente. Quindi voglio dire, a prendere un allenatore come ha fatto il Bologna di poca sportività, perché io lo reputo poco sportivo, lui in una situazione del genere avrebbe dovuto dimettersi, visto che ha sempre questo atteggiamento di pacato, piagnone, sportivo. Ma non, perché avrebbe dovuto dimettersi? Ha deciso di andare fino in fondo, ha fatto punti con la Juventus, con il Napoli, l'Inter. Questo dopo la 20ª partita, quando hanno dichiarato lo stato di fallimento. No, l'Inter ci ha perso, quindi, credo ad ottobre a Parma, ed è stata una delle croci su Mazzari. Adesso sto andando a memoria. A memoria ha fatto 6 punti nelle prime 25 partite. E ne ha fatti altri, credo, 10-15 nelle successive, quando poi l'istanza fallimento stata fatta, e quindi tutti si sentivano, diciamo, coperti o comunque abbastanza. Sì, abbiamo più o meno capito il ragionamento, che però Pier continua a non condividere, perché lei sa quanto sia difficile allenare una squadra in quelle condizioni. Io quindi posso essere d'accordo su una cosa, cioè che il finale molto dignitoso è l'oggettivo dispiacere per una brutta storia nella quale calciatori, staff tecnico sicuramente perderanno dei soldi, non li otterranno, insomma, auguro tutto il meglio, però insomma sicuramente non hanno vissuto una situazione facile. Ecco, tutto questo non deve togliere, diciamo, l'attenzione sul fatto che dal punto di vista tecnico la prima parte della stagione del Parma sarà fallimentare. Io su questo posso essere d'accordo. È stata, non ho capito, fallimentare. Sicuramente, cioè, prima che ancora che scoppiasse tutto il casino, il Parma era già in una condizione tremenda. E quindi questo può essere accettabile e può essere sottolineato, ma più di questo, francamente, cioè, poi non mi sento di dire perché doveva rimettere. No, ma infatti non capisco dove starebbe l'antisportività di Donadoni per non essersi dimesso. Tra l'altro si sta, secondo me, dimenticando che chi ha consentito al Parma di portare in fondo la stagione regalandogli una speranza che poi non si è concretizzata, ma che arrivasse qualcuno, salvasse almeno la Serie B, non stava tutelando se stesso, stava tutelando qualche decina di dipendenti, quelli da 1500 euro al mese, esatto. Che mi risulta in tanti passaggi in quei mesi l'anno scorso sono stati aiutati da chi era un po' più fortunato e ci ha perso dei soldi e ce li avrà persi, però non lo so, sarà... di sicuro aveva bisogno morale, tutto tranne che si smobilitasse, esatto, in quella situazione. Mi sembra buono, poi che si voglia dire che gli eroi sono altri, che ma no, non parliamo di eroi, Pier, parliamo di gente che ha fatto il loro lavoro, che ha fatto il suo lavoro in condizioni estreme. Se cerco di cogliere secondo me l'unica parte ricevibile ed eventualmente condivisibile del discorso dell'ascoltatore, cioè il fatto che magari a un certo punto si può essere un po' esagerato, diciamo, nella mitizzazione di questa storia. Questo può essere un discorso sul quale possiamo fermarci a discutere, questo certo. però insomma, ecco, poi da qui a dire che non è stato morale Donadoni. No, allora possiamo dire che dignità, una squadra che non di professionisti che non prendeva i soldi, possiamo dire che tutelavano i loro contratti futuri, questo lo possiamo certamente dire, certo. La loro professionalità, immagine, il fatto che lui sia stato chiamato adesso è la dimostrazione di questo, nel senso che lui è riuscito, ma non è una colpa, lui è uscito bene dalla stagione scorsa. Beh, ma ce ne sono tante di storie simili, ovviamente non di queste dimensioni, ma ce ne sono tante di storie simili in giro nel mondo dello sport, non solo del calcio. Cioè, alla fine tu vai avanti a giocare perché quello è il tuo mestiere e cerchi di procurarti un contratto per il futuro e poi quello che prenderai per il pregresso si vedrà. Per capirci, Carlo, se il Parma non avesse avuto quel problema lì e fosse retrocesso sul campo senza particolari altri aspetti, in una stagione tra virgolette normale, come da prime 15 giornate di campionato, certamente il Parma, i suoi giocatori, lo stesso Donadoni avrebbero chiuso la stagione con un'immagine piuttosto negativa. Sì. Invece Donadoni ha chiuso la stagione alla grande. Donadoni e altri giocatori del Parma, pensate a Lucarelli, no? Che è stato il capitano. Diversi giocatori, e Donadoni su tutti, essendo l'allenatore, sono usciti bene da questa stagione. Questo può essere un paradosso, perché sicuramente sul campo non avevano fatto bene, anche se poi devo dire la verità che quel Parma lì, all'inizio della stagione, al di là dei problemi economici che si sarebbero palesati dopo, già aveva avuto mille problemi con Biabiani, non era stata fortunata. Non era certo la squadra dell'anno precedente. Sentiamo anche Ernesto da Milano prima del traffico. Ernesto, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io, vabbè, avevo telefonato perché volevo parlare di Milan, però c'è una cosa che riguardo a Valentino, so che ne avete già parlato tanto, però volevo solo dirle la mia opinione, nel senso, io non condivido, cioè io non me la sento di accusare Marquez di scorrettezza, secondo me Marquez è solo un po' arrogante e presuntuoso e anche sbrufone. E detto questo, io volevo dire, lei si immagina, cioè Valentino Rossi, secondo me ha fatto due errori grossi. Il primo, quando ha fatto le dichiarazioni che ha fatto nell'ultima gara, giusto? Perché lui, facendo quello, ha provocato questo sbruffone e arrogante di Marquez. Tanto è vero, la gara dopo gliel'ha fatta quasi pagare. Però lui l'errore più grosso l'ha fatto nella penultima gara. Cioè, secondo me, se lui avesse accettato di continuare la gara in quella maniera lì, cioè essendo sempre buzzeccato da Marquez, al massimo sarebbe arrivato quarto, ma secondo me alla fine della gara i giudici avrebbero squalificato Marquez, l'avrebbero retrocesso, perché lui sarebbe arrivato comunque terzo, però nell'ultima gara sarebbe stato Marquez a partire da in fondo alla griglia. Questo e lui non è così scontato Ernesto, innanzitutto quel duello non c'è stato, quanto le dice squalificato per che cosa? cosa, lei ha dimenticato un aggettivo su Marquez, che è quello che abbiamo usato prima impropriamente per Donadoni, cioè antisportivo. La sua condotta è stata antisportiva e su questo non c'è dubbio. Quanto al resto, chi lo sa come sarebbe finita, magari sarebbero buttati a terra a vicenda, magari li avrebbero squalificati tutti e due. Non possiamo ragionare con sulla base di ipotesi. Poi, in questo Carlo, caso noi siamo qui che aspettiamo fiduciosi ancora cosa? La telemetria ma non doveva arriva. Essere resa nota arriva, prima del Gran Premio di Valencia, poi non subito arriva. Dopo il Gran Premio, beh, ma noi stiamo qui che aspettiamo, ma noi hanno detto che se la fanno vedere la telemetria, ecco, se quella è la cosa che chiarisce tutto, non siamo qui che l'aspettiamo. Comunque ha ragione l'ascoltatore, ma questo è il punto di partenza, cioè che Valentino abbia sbagliato quel giorno a reagire è il punto di partenza, perché ha detto mille volte che è caduto in una trappola, che però ragazzi, io penso, Pier, che non sarebbero arrivati in fondo, ma lo dico perché questa era anche la sensazione in quei minuti a Sepang. Tra l'altro io continuo a sostenere che di aver avuto netta l'impressione che Marquez cercasse l'incidente, ma l'incidente nel senso il contatto, finiamo per terra tutti e due, ti ho rovinato il mondiale ed è finita lì. Vabbè, fermiamoci per il traffico invece, poi torniamo, c'è un salto in Spagna direi dopo. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Domenica Buono che come in studio per Luigi Parda al telefono 800240024 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per messaggi SMS, ma soprattutto WhatsApp, che mi divertono un sacco, ripeto. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Devi sapere, Phil, che è impazzito per il WhatsApp. È arrivato in Spagna. È arrivato in Spagna. No, noi qui non ce l'abbiamo. Vedi. Noi non ce l'abbiamo. Da quando me l'ha messo in studio con il tablet, che ovviamente non sono capace di usare, sono felice anche come un bambino. Sì. Cos'è il tablet? Si chiama tablet. È Filippo che te lo sta chiedendo. È sufficiente completamente. Adesso, ragazzi, non fatemi fare sono ignorantissimo, ma non mettetemi alla berlina in questo modo. Non si chiama tablet questo affare qui, Capuano. Tu che sei per si chiama tablet. E allora, comunque posso dire, invitiamo la tableta. È la tableta. Ricci, piantala, Invitiamo gli amici da casa a mandare le immagini anche, così vediamo Carlo Genta alle prese con l'allegato. Siete veramente una banda di stronzi, posso dirlo con grande affetto, no. Ma con grande affetto ve lo dico, con grande affetto. Stadio 24, come... Stadio 24, tenemos toda esatto, la... piano con le parole, Una smierda, definito. Ricci, c'è Spagna e Inghilterra, ma chi se ne frega, la Spagna vuole il classico, chi se ne frega di Spagna e Inghilterra? Hai visto James come tratta bene Benitez alla Colombia? Delicato, sì. Delicatissimo. Ieri gli ha fatto il gol decisivo, cosa grande, e dicevo, il prete è dedicato a chi diceva che ancora non ero in forma. No, virgolettato era di Rafa Benitez. Intanto CR7 ha comprato già il mezzo per scappare, Scusa, esco un attimo, compro un aereo. Cioè, io credo seriamente, al di fuori dello scherzo, giochi di parole, che il Real Madrid stia cominciando a pagare la scelta di Benitez. Sì, anche salato mi sembra. Bah. Sì, adesso vediamo come va a finire il classico, perché poi lo sai, qua sono degli schizofrenici. Cioè, basta una partita per cambiare tutto, qualsiasi cosa. Se dovessero vincere il classico, tutto rientrerebbe in una nube di pseudonormalità. Però no, la situazione è complicata qua al Madrid. Il futuro di Ronaldo, appunto, potrebbe essere in volo insieme al suo jet da 19 milioni. Che uno come James, che alla fine è un ragazzo tranquillo, così appena può gli tiri una legnata dalla Colombia, mi sembra che la situazione sia fuori controllo. Non bellissimi segnali. Pardo. No. Sì, ma insomma, io ho dei dubbi. Devo dire... Dei dubbi su cosa? Scusa, Pier. Ho dei dubbi su Benitez. Cioè, secondo me lui è uscito malissimo a Napoli. C'è poco da girarci attorno. Il suo palmarès internazionale rimane eccellente. Quindi stiamo parlando di uno dei mostri sacri di questo tipo di lavoro. Però Napoli è stato un dettaglio. Napoli arrivato Sarri e il colpo è mossa, sì, ma, squadra, sai, Chiara, quindi... al di là di quello che a me potrebbe preoccupare fossi tifoso del Real Madrid è il rapporto che i giocatori avevano con lui e sì. avevano con lui a Napoli e che sembrano avere, Giovanni, anche con lui a Madrid. Sì, ma tra l'altro mi pare che a Madrid Benitez abbia iniziato male, anche quelle lacrime il giorno della presentazione per poi entrare in uno spogliatoio pesante, difficile come quello del Real Madrid. Mi pare che non fosse il modo migliore, Filippo, di presentarsi. Mi sembra che l'abbiano stritolato in due mesi. Sì, è entrato subito in rotta di collisione con Ronaldo. Che non è il massimo, l'unica roba che non devi fare. Esatto, Ronaldo si porta dietro una parte dello spogliatoio. Il secondo diciamo, screzio con Sergio Ramos. Cioè, voglio dire, almeno... non so, litiga con Arbeloa, io questo dico, capito? Cioè, litiga con Nacho, adesso rapporto incrinato con Kamen, quindi solo chi sarà il prossimo allenatore del Real Madrid? Oggi sulla Gazzetta ho letto questo commento di Santiago Segurola, nostalgia Ancelotti il titolo. Attenzione, Segurola ha titolato il suo pezzo di cronaca su Marca la stagione dopo la sconfitta, era disastro totale. Che voglio dire, anche lui ci mette del suo, però è così, la stampa qui funziona così. È chiaro che c'è nostalgia. Quando Carlo è stato licenziato, quanti sono arrivati a proposito di adesso di cazzeggio su nuove tecnologie e via dicendo, tutti i giocatori hanno postato il loro bel messaggino, la loro bella foto. E quindi c'è grande nostalgia adesso. Carlo, altro che Maresca col Palermo, con gli Achini. Diciamo che il prossimo allenatore sarà Florentino Perez. No, è l'allenatore attuale Florentino Perez, è quello attuale e anche quello scorso quando c'era, esatto, quando però c'era Ancelotti. Sarà così, il prossimo non so, sarà Zidane magari, vediamo, però adesso è ancora presto, intanto vediamo come va il classico e se funziona, se magari, sai, ma comunque il Real Madrid è stato uno squadrone, se vince il classico ovviamente Benitez respira. Giusto respira. Sì, respira, perché si vede che la situazione poi è vediamo come arriva Natale, ormai Natale è la deadline un po' per un sacco di cose. Grazie Phil, ti abbraccio, dobbiamo chiudere, io volevo rubare l'ultima battuta a Pardo. Ciao Pierluigi, ciao, Maradona ha chiesto scusa a Sarri, ai e dice Higuain è il mio erede, su Sarri mi sono sbagliato. No, deve continuare. Deve continuare, esatto. Hai visto mai, fossi napoletano, fossi un tifoso del Napoli, fare gli scongiuri, anche tu? Sarà una coincidenza, però l'abbiamo fatto varie volte. Sì. La rinascita del Napoli, il Big Ben del Napoli è arrivato esattamente nella settimana delle parole di Maradona, quindi insomma, dalle quali Sarri, l'abbiamo detto mille volte, ha risposto con gratissimo. In maniera meravigliosa. Grazie Pier, sentiamo domenica con Giovanni Capuano. Fermi tutti, torniamo subito dopo il GR. Sono ragazzi. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Convocati. Torniamo agli ascoltatori, Giovanni Capuano, e ai messaggi 349-2338, lo ripeto bene, 349-2386666, sms e whatsapp, ce n'è per tutti i gusti, da Valentino a Conte. Gianluca da Reggio Emilia invece ha telefonato, buongiorno. Buongiorno, sono tifosissimo, premesso che sono tifosissimo di Valentino e mi è dispiaciuto parecchio, insomma, come è finito il mondiale. Sono anche d'accordo, insomma, che Marquez non abbia giocato pulito con Lorenzo, anche se però devo dire che Lorenzo comunque bisogna riconoscere che ha vinto 7 Gran Premi contro 4 che ha vinto Rossi. E secondo me Rossi, nessuno, almeno non l'ho letto, secondo me un po' il mondiale l'ha buttato via quando in quella gara, adesso non mi ricordo quale Gran Premio che pioveva. Mugello. No, ecco, sotto la pioggia. Misano. Esatto, a Misano che pioveva, che sì, lì si ha tardato il rientro. Lì si fa risalire il peccato originale, ma anche Lorenzo ha perso punti per strada, per non parlare di Marquez nel corso di un mondiale. Gran Premio storto ti capita. Poi andiamo a concentrarci però sugli atti finali del mondiale. Sì, quello. Però è chiaro che purtroppo ormai è andata così. Io dico, se in quella gara fosse andata a finire diversamente, cioè si fosse fermato prima, poi è vero, come ha detto lei, è vero che anche gli altri li hanno persi per errori simili i punti, però sì. Insomma, tutto sommato ha vinto 7 Gran Premi, Valentino ne ha 24, cioè in molti Gran Premi era più veloce, dai, bisogna riconoscerlo. Sì, poi, purtroppo è stato un brutto spettacolo l'epilogo, quello settato, che secondo me, ma guardi, insomma, infatti a me finisce per dispiacere anche per Lorenzo, per il motivo che ho ripetuto anche troppe volte nei giorni scorsi, perché la condotta di Marquez ha fatto fuori Rossi e ha delegittimato Lorenzo, o Lorenzo si è delegittimato da solo con quelle dichiarazioni. Se ecco, non ci fossero stati loro, lui, non ce lui ci ha fatta. Messo il suo, fosse stato zitto per 3 settimane, genio del male, oggi sarebbe fuori da questa contesa. Poi credo che Lorenzo per primo sappia che su questo titolo c'è un'ombra grossa come una casa e dovrà conviverci per il resto della carriera serenamente, perché ha vinto. Quindi può anche dire che non è che la cosa lo turbi più di tanto, però intanto hai visto che gli è andato a fuoco la moto durante la festa. Ho visto. Il karma. Oh, il karma, tu dici. Ivo da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto grazie per la convocazione. Grazie a lei. Senta, niente, io vorrei solo far presente se questi qui, i responsabili della MotoGP, si sono resi conto del danno d'immagine che hanno arrecato con questo col fatto di Valentino. Se ne sono resi conto perfettamente. Però il discorso è questo: questi hanno permesso a un motociclista per 3 Gran Premi di fila di recare danno a uno con cui non aveva nessun. Non serve a niente per la lotta per vincere il mondiale, no? Sì, sì. E addirittura non solo non l'hanno punito, ma hanno permesso che venisse esaltato dalla stampa spagnola, addirittura dal primo ministro spagnolo, senza che. Lì non potevano fare niente su quel fronte, ma ripeto, Marquez non ha violato nessun regolamento se non leggi non scritte. Diciamo che se venisse fuori la telemetria. Che oggi 13 novembre siamo ancora qui ad aspettare, magari potremmo anche rispondere alla domanda se ha violato o no qualche regolamento tu dici. Cosa che oggi noi dobbiamo fidarci della presunzione di innocenza, dicendo è stato un po' antisportivo ma non ha violato nessun regolamento. Però ad esempio venisse fuori in questa benedetta telemetria delle ultime 3 gare che ci hanno promesso e noi siamo ancora qui ad attendere, che invece non tutto è filato liscio, magari tu scopri postumo che invece qualche regolamento l'ha violato. Però secondo me di cosa ne pensa la federazione, la Dorna e tutto il resto del mondo, quelli che ci sono rimasti un po' così, fa testo quel piccolo video in cui Valentino Rossi prende Speleta e dice, hai visto che te l'avevo adesso detto? Andiamo nel camper. Vieni nel mio camper. Non si fa così. Vieni nel mio camper. E quell'altro che è il boss, imbarazzato, sta zitto e fa nel camper di Valentino, io credo. Insomma. No, ma la Dorna se ne è resa conto perfettamente del danno d'immagine che ha ricevuto, ma il danno d'immagine non è solo della Dorna. Tu lo vedi Hamilton che prende per le orecchie Eccleston e se lo porta nel motorhome, no? Il danno di immagine comincia ad essere qualcosa di tangibile anche per gli stessi piloti, perché come sappiamo gli orologiai hanno mollato Lorenzo, hanno detto vabbè il contratto era finito, però si sono guardati bene dal rinnovarlo. E c'è una industria di abbigliamento che pare voglia ritirare la sponsorizzazione a Marquez. Se leggete la sua tuta capite bene qual è. Allora adesso parliamo un po' di nazionale, ragazzi. Andiamo, facciamo un salto a Bruxelles, Giovanni. Andiamo. Dai. Sì, tu sei qui straordinariamente qui. L'ho detto anche l'altra volta, se vogliamo fare delle cose e pensare di fare e arrivare a fare delle cose straordinarie, abbiamo bisogno di uomini straordinari, di calciatori straordinari e di uomini straordinari. Questo è fondamentale perché è un po' il mio credo, ecco, e quindi lo porto avanti. Tu sei qui straordinariamente mia. Sei tu. Ribadisco di essere molto contento dei calciatori fin qui convocati, sia quelli che sono presenti che quelli che non ci sono, perché quando sono venuti comunque si sono sempre molto allineati e hanno dato sempre grande, grande disponibilità. Come te, straordinario è il tuo amore per me. Ma non stiamo cercando di formare con una nazionale che nei momenti di difficoltà ci saranno, che arriveranno, li sappia superare. Nella mia carriera da calciatore e anche da allenatore mi ha insegnato che i momenti di difficoltà li superano prima gli uomini e poi i calciatori. Ecco perché insisto tanto e batto molto su questo tasto. Questa era la vigilia di Antonio Conte. A Bruxelles c'è Dario Ricci, nostro inviato, che già saluto. Ciao Dario. Ciao ragazzi. Che tempo c'è? Tutto bene? Ottime condizioni, direi. Ottime condizioni. Terreno di gioco in perfette condizioni, un po' ventoso, però temperatura mite, tutto per una bella partita. Insomma. Sperem, c'è anche un altro argomento che vorrei trattare sempre con la voce di Conte, perché prima della partita c'era una cerimonia, quando sono le cose buone, positive. Oh, ragazzi, bisogna anche dirlo e sottolinearlo. Questa lo è, Conte. È stato un momento particolare in cui tutti quanti, ecco, l'abbiamo vissuto con grande emozione, ecco. Se si ripensa a quello che è accaduto, qualcosa di incredibile, di tragico, e ci auguriamo, ecco, che gli esempi negativi possano sempre servire affinché una cosa del genere non accada mai più, ecco, in nessuno stadio. Ovviamente il soggetto è l'Aisel, gesto simbolico naturalmente, però gesto dovuto, è stata mantenuta fede alla parola Giovanni Capuano. Sì, tra l'altro la parola che Tavecchio aveva dato qua, 31 maggio ricordo, era la domenica prima della finale di Berlino, e lui tenne fede alla promessa di intervenire perché voleva dire questa cosa, perché quella petizione gli era stata portata all'attenzione e insomma aveva capito che si poteva fare questo gesto e si era impegnato a farlo. Non ero nemmeno sicuro che poi succedesse, invece succederà, è successa ieri, c'è stata la cerimonia italiana, però quello che succede questa sera è davvero bello, perché per far la sospensione di 60 secondi al 39esimo minuto del primo tempo, che celebra il ritiro della maglia numero 39, questo sì simbolico perché la 39 non è mai stata usata e mai sarà usata, si sono dovuti mettere insieme la Federcalcio italiana, la Federcalcio belga e l'UEFA, e voi sapete che in questi 30 anni hanno avuto posizioni spesso imbarazzate, certo, diverse, certo, sulle vicende dei Isel, certo. Quindi è una bella cosa, però posso dire secondo me il senso di tutto questo, tra qualche settimana c'è Juventus-Fiorentina, ecco, io spero che questo ritiro della maglia numero 39 significhi anche la presa di coscienza che noi non dobbiamo mai più sentire negli stadi quello che è stato sentito troppo spesso. Vale per i 39 morti dell'Isel, vale per Superga, vale per le tante tragedie, questo deve essere un simbolo che mette insieme tutti per una volta. Confesso il mio pessimismo, ma sarebbe davvero bello. Dario Ricci. Direi pienamente d'accordo con quello che sottolineava Giovanni. Ieri il ritiro della maglia 39, che tra l'altro è un'iniziativa che è stata sollecitata e proposta dall'associazione delle vittime dei familiari dell'Aisel. C'è stata eco di questa cosa lì? Sì, devo dirti di sì, anche questa è stata una notizia, perché chiaramente anche i belgi hanno le loro gravi colpe per quello che è accaduto 30 anni fa, però la stampa ha giustamente sottolineato quanto è accaduto ieri, Le Soir e altri quotidiani hanno pubblicato foto, reportage, danno ampio spazio alla cerimonia di oggi che è del tutto particolare, al 39esimo minuto appunto, come ricordava Giovanni, la partita si interromperà per un minuto, sui maxi schermi di fronte a 50.000 persone correranno i nomi di quelle 39 vittime. Direi che, come sottolineavi anche tu Carlo, siamo sempre i primi a fustigare un calcio, quello italiano, che ai lui ci dà sempre motivo per farlo, però è giusto sottolineare anche le iniziative che funzionano e che partono anche dal basso, ricordiamolo, questa iniziativa dell'associazione dei familiari che ha spinto molto per rendere partecipi le varie realtà in, certo, campo. Senti, per quel che può contare formazione di oggi, hai qualche novità da darci o tutto confermato? Direi che il dubbio è un po' tra Esharawi e Candreva. sull'esterno. È interessante però anche quello che ha detto Conte ieri guardando al Belgio, no? Belgio primo nel ranking, tantissimi campioni a partire da mister 74 milioni De Bruyne, e poi Conte ha detto guardo anche con invidia a quel modello, cioè di un campionato e delle squadre anche di vertice di fatto funzionali a questi risultati della nazionale. Mi è sembrato di intravedere oltre che il rimpianto anche quasi in filigrana le spiegazioni per cui poi magari il rapporto tra CT e la nazionale si interromperà, no? Sì, su questo però, non guarda, ovviamente nessuno l'ha detto, però la sensazione è quella comune, quella di tutti. Dario, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla ragazzi. Prossima. Senza mitizzare, perché poi nazionali belgi in patria giocano due o tre, certo, non di più. Certo. Quindi questa collaborazione è una collaborazione a monte, è la scelta fatta loro negli ultimi 10 anni. Ricominciamo col discorso: in Italia giocano pochi italiani, in Belgio. Allora te la do io la risposta. Nel campionato belga, che è a 16 squadre, il 54% dei giocatori è straniero. Quindi diciamo siamo su media abbastanza simili alle nostre. Dei nazionali ovviamente quasi tutti giocano fuori, quasi tutti in Premier League, c'è anche Nainggolan che gioca in Italia, insomma sono tutti giocatori importanti. La differenza è che i belgi, come i tedeschi, nel momento peggiore per i belgi, l'europeo del 2000, hanno investito su centri federali, preparazione dei tecnici, scouting dei 200-300 migliori prospetti, e poi hanno raccolto poi il bacino non è sterminato, anche una generazione meravigliosa, perché non tutti i decenni ti questo capita di avere i talenti che hanno i belgi. Giovanni, però attenzione, io posso dire una cosa, è certo qualcosa che negli ultimi mesi si sta provando a fare anche in Italia. La sta facendo Tavecchio, ma in realtà era un progetto anche partito prima. Demetrio Albertini lo rivendica. Ci sono alcuni centri federali che vengono in questi mesi finanziati proprio per fare quel lavoro lì, e anche per preparare i tecnici che poi vanno a insegnare calcio ai ragazzi. Vediamo se anche a noi, come i tedeschi, riuscirà poi l'operazione. È un lavoro in profondità, ma ci vogliono 10 anni. Non è che succede dopo domani. Questo è evidente, e poi hai ragione quando dici che ogni tanto ti capita la generazione di fenomeni. Onestamente questo Belgio ha tutta l'aria di avere, al di là del lavoro di profondità che è stato fatto, una generazione tanta roba di grandi Belgio giocatori. Sono d'accordo. Anche molto multiraziale, perché è multietnico, perché poi insomma loro senza polemiche si sono presi più della metà di questa nazionale, non è belga nel senso stretto del termine. No, ma io non ci trovo niente di strano, no, nemmeno neanche io, niente di sbagliato. Però visto che si continuo apre sempre pensando poi la discussione, esattamente come la Germania che vince il mondiale, anche questo tutti Belgia quelli che sono eleggibili, tutti quelli che sono eleggibili e funzionali devono essere chiamati, cioè dovere del commissario tecnico di dare al calcio del paese di appartenenza la nazionale migliore possibile. Ernesto, Firenze. Sì, pronto? Dica. Sì, senta, io niente, sono fra tutti i tifosi di Valentino, io sono uno controcorrente. Volevo solo dire che Valentino è un grande pilota e tutto, ma lui in ultime gare, specie la penultima, si è fatto cedere dal nervoso e ha scommesso la correttezza di cui i giudici l'hanno condannato. Perciò non vedo se l'è perso lui il mondiale, perché se lasciava passare Marquez con un duellava così fino all'ultimo, Marquez forse poteva... Sì, se l'è perso lui, gliel'hanno fatto perdere. L'ha perso non per è che gli hanno rubato niente. Poi no, gli ultimi Gran Premi era sempre più veloce Lorenzo, ma di molto, di mezzo. Cioè, noi siamo, noi siamo un popolo meraviglioso. C'era gente più veloce di Lorenzo, compreso quello che non l'ha attaccato. Siamo disposti a dire che è stato rubato uno scudetto, un titolo, una coppa per un fuorigioco magari di 15 centimetri, visto o non visto. Quello che è sotto gli occhi di tutti, che è successo diciamo negli ultimi due Gran Premi, in Australia se n'era accorto soltanto Valentino Rossi, e invece riusciamo anche a dividerci tra di noi. Ma è bello dire, così, dai. È bello così. Ciao Gianni De Rosa da Sky. Ciao, buongiorno a tutti. E parla anche tu di Valentino Rossi, hai qualcosa da aggiungere? Hai la telemetria che è l'unica cosa che ci interessa oggi, magari no, a Sky io, che insomma sinceramente con i motori non c'è azzecco tantissimo. Sul basket sì, però io ho ricevuto oggi anche con i potenti mezzi tecnologici, sto impazzendo perché mi ha mandato WhatsApp pure in studio, un sacco di appelli accorati per l'Olimpia Milano che ieri sera è stata presa di nuovo a schiaffoni in Eurolega dal Limoges. Io continuo a pensare, lo dico dal minuto zero, che questa non sia una squadra d'Eurolega, non so nemmeno se sia una squadra da scudetto. Ma al momento no, non è probabilmente al momento neanche una squadra da scudetto, ma è molto presto. Di sicuro la partita di ieri, così come quella di settimana scorsa, nessuno se ne aspettava, perché è vero che quest'anno la società, il nuovo allenatore, ha puntato più, diciamo, sulla capacità di combattere, la voglia di combattere, la necessità di creare un gruppo, che sul talento puro. Però questa squadra ieri e contro il Tenerife la scorsa settimana non ha neanche combattuto. La cosa preoccupante è esattamente questa, che una squadra di lottatori non lotta, anzi si affloscia alla prima difficoltà. E questo è obiettivamente sorprendente per una squadra che invece fino a 10 giorni fa, 2 settimane fa, stava mostrando degli evidenti segnali di crescita. L'ha dimostrato sicuramente non di valere le prime dell'Eurolega, ma quantomeno di potersela giocare, perché contro Olympiacos ha perso all'ultimo minuto. Io ieri ho visto Efes Olympiacos e mi è sembrato un basket di un altro pianeta. Non ha neanche la taglia dell'Eurolega, Jari, non ha neanche la taglia da Eurolega, ma questo si capiva fin dall'origine. Non credo peraltro che questa sarà anche la stessa squadra che andrà avanti sulla strada del campionato, quantomeno, perché immagino che interverrà il signor mercato prima o poi su questa squadra. Sì, mettendo però delle toppe, perché l'anima, diciamo la filosofia di questa squadra ormai non la cambi più. Puoi mettere 2 o 3 giocatori, arriverà Rakim Sanders, che è un ottimo giocatore, ma mi sembra che sia l'unico ruolo abbastanza coperto quello che occuperà Sanders. Sicuramente sono chili, sono muscoli che arrivano, atletismo, e insomma, e poi i tifosi mi ricordano bene Sanders, perché è stato decisivo per lo scudetto di Sassari e per la semifinale dell'anno scorso. Però non credo che possa sinceramente risolvere i problemi intanto Repeci di risolverli all'interno, cioè cercare di tirare fuori l'anima da questi giocatori che sono stati chiamati perché hanno dimostrato nella loro carriera di averla quest'anima. E in questo momento la sono persa. Le facce di ieri di Gentile in grande insofferenza sono molto preoccupanti, perché è vero che lui gioca con delle marce in estate per stare ai motori e gli altri sono praticamente in folle. Sì, questo è vero. Giovanni, un allenatore serbo e un allenatore croato in difficoltà a Milano, Repeša e Mihajlović. Sì, anche se onestamente hanno due parabole completamente diverse, credo anche quelle future, perché sì, penso anch'io. Non so come la stia vivendo il signor Armani, che ultimamente, insomma, nei mesi scorsi era indispettito un po' come il signor Berlusconi, però mi dà l'idea che, insomma, Repeša sia davvero soltanto all'inizio di un progetto, di un ciclo, e abbia tutto il tempo per dispiegare, anche perché poi il basket lo permette. Tu fai bene la seconda parte della stagione, so i playoff, non so se c'è la stagione salva. Non so se ha ancora tempo per noi, come canterebbe Ligabue, perché Armani ne ha investiti tanti di soldi, ha raccolto pochino rispetto ai soldi che ha investiti, quindi non so se sia un investimento sine die. Ma non lo so, la passione c'è, perché mi sembra che partecipi alle partite ancora più degli anni scorsi, sempre presente al forum, la passione c'è di sicuro. Anche Berlusconi va a San Siro, se vogliamo continuare con il parallelismo. È preoccupante questo. No, sicuramente, ma secondo me era abbastanza soddisfatto l'inizio della squadra, e nessuno penso si potesse immaginare l'evoluzione delle ultime 2 settimane, e in mezzo c'è stata la partita con la Virtus di campionato, che a Milano ha vinto, ma è stata altrettanto inquietante secondo me per come è stata giocata. Secondo me il signor Armani dovrebbe intanto chiedersi però come mai quasi qualsiasi giocatore che arriva a Milano poi rende meno di quello che ci si aspettasse. E cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, però diciamo un denominatore comune che riguarda la maggior parte di quelli che sono passati a Milano è una resa così inferiore rispetto alla città, all'ambiente. Non lo so, però lo possono sapere solo loro che vivono. Sarà che deve fare come Bonicciolli, che li ha mandati a letto senza cena quelli della Fortitudo Bologna. Potrebbe essere una soluzione. Grazie Jerry, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Grazie Jerry De Rosa. Giovanni, ci vediamo domenica. Domenica 17-19 cercheremo di chiarire il grande mistero, vero, grande mistero della settimana legato a Conte. A Conte. Domenica, ore 17. State con noi. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore. Paolo Corleoni in regia, Giovanni Macchioni in redazione. Ciao a tutti. È finita! È finita!